GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. I lavori del Consiglio regionale si sono aperti con un minuto di silenzio per il femminicidio di Giulia Cecchettine, la ragazza di Vigonovo uccisa dal suo ex fidanzato, ora in carcere in Germania. Ieri sera migliaia di persone hanno partecipato a Padova a una fiaccolata contro la violenza di genere. E in previsione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne il 25 novembre, oggi a Udine il coordinamento donne della CISL dell'Udinese ha organizzato un incontro con una sessantina di ragazzi dell'Istituto Tecnico Zanon e del liceo scientifico paritario Don Milani. Un incendio è scoppiato la scorsa notte nel centro di accoglienza per minori di Ghirano di Prata di Pordenone, coinvolgendo 10 ospiti della struttura per i quali non è stata necessaria l'ospedalizzazione. Si intitola I mestieri che cambiano il pianeta, il nuovo incontro del convegno Metal 5.0 nelle scuole della regione per parlare di nuove prospettive industriali e lavorative del territorio. Oggi è toccato l'Istituto Tecnico Volta di Trieste e sempre a Trieste il comune ha presentato un progetto pilota per la creazione di un distretto del commercio. In occasione della giornata nazionale di lettura ad alta voce, Trieste e Gorizia rendono omaggio ai 100 anni della coscienza di Zeno con una maratona di lettura. A Gorizia durerà fino alle 15, mentre a Trieste andrà avanti fino alle 2 di notte nell'emeroteca Tomizza di Piazza Ortis. Lo scrittore spagnolo Arturo Pérez Reverte sarà il protagonista della 30ª edizione di Dedica, il festival organizzato dall'Associazione Culturale Tesis dal 16 al 23 marzo 2024 a Pordenone. Dedica declinerà l'universo letterario dell'autore con incontri, letture e lezioni. Rocco Papaleo porta in scena questa sera al Teatro Verdi di Pordenone l'Ispettore Generale di Nikolai Gogol, capolavoro della drammaturgia russa, una satira sul potere e sulla burocrazia dell'epoca, coperta da un manto pesante di ipocrisia. Ne abbiamo parlato con lui. Le 12:32 minuti, buongiorno da Giorgio Berz e Dario Ronzoni per questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di martedì 21 novembre. Oggi i lavori del Consiglio regionale si sono aperti con un minuto di silenzio per commemorare il femminicidio di Giulia Cecchettin, la ragazza di Vigonovo uccisa dal suo ex fidanzato che ora si trova in carcere in Germania in attesa dell'estradizione in Italia. In programma anche una mozione del capogruppo del PD Diego Moretti che chiede la condanna della violenza e il cessate il fuoco in Palestina e quella di Andrea Cabibbo, capogruppo di Forza Italia, per un pieno sostegno a Israele. Si è aperta con un minuto di silenzio il ricordo di Giulia Cecchettin, la seduta del Consiglio regionale. L'aula unita nel cordoglio e nella commemorazione della ragazza veneta uccisa dal suo ex fidanzato Filippo Turetta, che ha lasciato il suo corpo in un dirupo al lato della strada tra Barcis e Piancavallo. Il presidente del Consiglio, Mauro Bordini, ha dedicato il minuto di silenzio non solo a Giulia Cecchettin, ma a tutte le donne uccise dagli uomini in questi anni in Friuli, Venezia Giulia e in Italia. Da una questione che accomuna l'intero Consiglio a una invece che in qualche modo lo divide, approdano nell'emiciclo infatti due diverse mozioni su quanto accaduto e sta accadendo in Israele e Palestina nelle ultime settimane. Da una parte la mozione pieno sostegno Israele presentata da Forza Italia, sostenuta dalla maggioranza, in cui si condanna con fermezza l'attacco del 7 ottobre di quello che viene definito il gruppo terroristico di Hamas. Dall'altro un documento più elaborato che parte comunque dalla condanna delle atrocità di ciò che viene chiamata l'organizzazione fondamentalista di Hamas. La mozione poi prosegue auspicando l'immediato cessate il fuoco ed esprimendo grave preoccupazione per l'evolversi della situazione nella striscia di Gaza. In un primo momento la mozione, che ora è solo del centrodestra, era stata appoggiata anche dalla minoranza, ma poi, dati gli sviluppi di queste 6 settimane, il centro-sinistra ha aggiunto punti che non sono stati pienamente condivisi dalla maggioranza. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Potrebbe arrivare in Italia entro qualche giorno Filippo Turetta, accusato di aver ucciso la sua ex fidanzata Giulia Cecchettin e di averne occultato il corpo in un canalone a Barcis. Il giovane è stato arrestato in Germania, dove era fuggito prima della cattura con l'accusa di omicidio volontario aggravato, ma successivi riscontri, tra cui l'autopsia sul corpo della ragazza e il ritrovamento di un coltello usato probabilmente per colpirla una prima volta già nei pressi della sua abitazione di Vigonovo, potrebbero aggravarne la posizione. Ieri sera migliaia di persone hanno partecipato a Padova a una fiaccolata contro la violenza di genere. Il servizio di Lucia Zorzi della redazione di Venezia. La luna, la luna, la luna di nero. Un fiume di persone, migliaia, soprattutto tantissimi giovani, ha partecipato ieri sera alla marcia organizzata a Padova contro la violenza di genere, iniziata a Porta Portello, che ha visto poi il corteo transitare davanti alla stazione ferroviaria e dirigersi verso il centro cittadino. Ho visto una forte partecipazione di molti ragazzi, ma anche di persone di varie età, quindi sì, è stato un bel momento. Fa male, è una storia che fa male, certo fa male, ma deve fare male perché ha fatto male a lei, ha fatto male ai suoi familiari. Violenza che ha le stesse radici di quell'altra tipologia di violenza che oggi si ricorda, perché oggi è il TDOR, che è il Transgender Day of Remembrance, cioè quindi il giorno in cui ricordiamo le vittime di transfobia. Il corteo di Padova ha scandito ripetutamente slogan contro il patriarcato, ha ricordato Giulia, la sua vita controllata e poi annientata da una persona a cui lei voleva bene e che diceva di amarla. Il dolore della famiglia Cecchettin è ormai il dolore di tutti. Dalla morte di mia figlia deve nascere qualcosa, ha detto papà Gino dopo la tragedia. Come famiglia ci impegneremo attivamente affinché questo non accada più ad altre ragazze e altre donne. Accanto a loro ora c'è un fiume di persone. La morte della 22enne di Vigonovo ha destato un urlo nelle coscienze. Giulia Cecchettin è diventata un simbolo. E proprio dalla volontà di tante donne che volevano e vogliono mettersi a disposizione di altre donne per trovare insieme delle strategie di sopravvivenza, 25 anni fa è nato a Trieste il Centro Antiviolenza, sede della Onlus Goap. Ma le donne hanno sempre meno fiducia nel sistema che, troppo spesso, non riesce a garantire loro sicurezza. È italiana, ha un'età compresa fra i 30 e i 40 anni, un lavoro a tempo pieno e una buona istruzione alle spalle. Questo è l'identikit che descrive la maggior parte delle 400 donne che ogni anno si rivolgono al centro antiviolenza GOAP di Trieste per imparare strategie di sopravvivenza e difendersi dagli uomini violenti. Il GOAP è nato 25 anni fa dall'intuizione di un gruppo di donne, fra loro Emma Tromba, oggi presidente dell'associazione. Le leggi negli anni sono aumentate anche le tutele, l'arresto in flagrante, il codice rosso. Il problema è che non viene, è il riconoscimento del fenomeno, quindi che spesso non viene riconosciuto come violenza, oppure se anche se viene riconosciuto, ma in realtà viene trattato come un conflitto. La brutalità messa in atto dall'omicida di Giulia Cecchettin fa tremare l'Italia. La sorella di Giulia, Elena, ha parlato di omicidi di Stato perché ogni volta che una donna viene uccisa il sistema paese dimostra di non essere in grado, di fatto, di tutelare le donne e la fiducia crolla. Tatiana Tomicic, cofondatrice del GOAP e operatrice dell'accoglienza. Non stiamo parlando di un problema solo individuale, stiamo parlando di uno schema strutturato culturalmente da millenni che si chiama patriarcato, che sta alla base di quello che è il nostro posizionamento, quindi chi sono in quanto uomo, chi sono le donne che io amo. Che la violenza non è un problema di tipo psicologico, quindi che riguarda, no, le singole persone, ma è un problema culturale, no? Se noi pensiamo nel mondo quante donne subiscono violenza. E c'è ancora tanto da fare. Per saperne di più, domani, mercoledì 22 novembre alle 13.30, va in onda su Rai Radio 1 per il Friuli Venezia Giulia il programma Chat FVG. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. La cronaca: un incendio è scoppiato la scorsa notte nel centro di accoglienza per minori di Ghirano di Prata di Pordenone, coinvolgendo 10 ospiti della struttura per i quali non è stata necessaria l'ospedalizzazione. Gli infermieri della SORES hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Pordenone, attivando le forze dell'ordine e i vigili del fuoco. Non è la prima volta che un episodio del genere accade in un luogo deputato a tale scopo. Sul treno regionale Venezia-Trieste, durante un controllo di routine sul convoglio in arrivo da Udine, gli operatori della polizia ferroviaria di Gorizia sono stati insospettiti dal documento esibito da un cittadino straniero il cui atteggiamento aveva richiamato la loro attenzione. La carta d'identità, risultata contraffatta, era intestata ad un cittadino polacco per il quale risultava attiva una segnalazione Schengen, in quanto lo stesso, con un altro nominativo, era ricercato dalle autorità tedesche ai fini estradizionali. Dal controllo personale e dal bagaglio al seguito sono emersi un ulteriore passaporto rumeno, anch'esso contraffatto, oltre 2.000 euro in contanti, un cellulare, diverse carte di debito e SIM card telefoniche, un notebook, una telecamera portatile, un notevole quantitativo di capi d'abbigliamento firmati, anche da donna, di cospicuo valore, nonché gioielli e monili in oro e numerosi attrezzi atti allo scasso di serrature di abitazioni come grimaldelli, chiavi alterate e calamite. Il giovane è stato dunque tratto in arresto e trasferito in carcere a Gorizia. Parliamo ora di lavoro. Questa mattina alla stazione marittima di Trieste si è tenuto l'evento Persone e Imprese, parola alle competenze, organizzato dalla Regione, in cui si è discusso delle competenze richieste sul mondo del lavoro dalle imprese e del divario tra domanda e offerta di lavoro. L'incontro è stato introdotto da un video in cui una giovane influencer si confronta su questo tema con un imprenditore. Oggi, durante un colloquio di lavoro, chi è sotto esame non è il candidato. Oggi durante il colloquio di lavoro chi è sotto esame è l'azienda. Cosa chiedono i lavoratori alle aziende in questo colloquio di lavoro non è solo un buono stipendio e un contratto a tempo indeterminato, è quello che sostiene Saverio Maisto, direttore del cluster metalmeccanico del Friuli Venezia Giulia, intervistato sul treno Udine-Trieste da Sofia Viscardi, giovane youtuber. Il tasso di disoccupazione italiano è alto, ma le imprese continuano a dire che mancano lavoratori di ogni tipo. Nel settore metalmeccanico, per esempio, non si trovano progettisti, tecnici specializzati, ingegneri, impiegati a tutti i livelli. Intanto molti di loro fuggono all'estero, volenti o nolenti. Abbiamo chiesto a Saverio Maisto di approfondire questa incomunicabilità nel mondo del lavoro, un tema che fa spesso discutere. I ragazzi oggi cercano cose diverse nelle aziende, vogliono essere coinvolti, vogliono condividere i principi aziendali, cercano soddisfazione che non sia esclusivamente economica, vogliono la possibilità di tagliarsi un ruolo. Le imprese dovrebbero quindi garantire formazione continua, ascoltare i dipendenti, valorizzare le risorse umane. Quelle del metalmeccanico dovrebbero anche riuscire a comunicare come sono cambiate. Penso al settore della metalmeccanica, mi vengono in mente delle cose brutte, della sporcizia, della fatica, ma immagino che non sia più così. Il settore manifatturiero è cambiato, è sempre più pulito, c'è bisogno sempre più di cervello e meno di muscoli. Le professioni del metalmeccanico diventano più digitali e nascono nuove figure. Oggi le macchine si parlano da sole, sono interconnesse attraverso l'internet delle cose, l'IoT, e quindi un tecnico dell'IoT è una figura che oggi è fondamentale nelle nostre aziende, che magari 5-10 anni fa non esisteva. Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Si intitola I mestieri che cambiano il pianeta, il nuovo incontro del convegno Metal 5.0 nelle scuole della regione per parlare di nuove prospettive industriali e lavorative del territorio. Oggi è toccato all'Istituto Tecnico Volta di Trieste, a un evento cui hanno preso parte esponenti della politica regionale, delle istituzioni e di alcune realtà territoriali e che coinvolge 300 studenti degli ultimi anni. Dalla metallurgia, dalla produzione industriale e dalla logistica arrivano i nuovi mestieri che aprono prospettive inedite per l'occupazione e la formazione. Il progetto Metal 5.0 di MILS li affronta assieme agli studenti degli istituti tecnici, delle università e delle scuole che, come il Volta di Trieste, stanno ospitando una serie di convegni. Marta Kosulic, Fratelli Kosulic S.P.A. Io seguo il mondo della logistica e dei trasporti come gruppo e stiamo sempre cercando questi ragazzi che possano in qualche modo portare innovazione nelle nostre aziende. Tutte le aziende dei settori dei trasporti e della logistica hanno bisogno di persone giovani che possano imparare questo mestiere che è cambiato rispetto al passato, è più digitale, supply chain sta diventando sempre più digital e per fare questo servono molte persone che possano creare anche e utilizzare questi strumenti. Dal punto di vista geografico, un'area sulla quale le imprese scommettono è quella dei Balcani. Luigino Pozzo, presidente PMP Industries Group. Le prospettive sono importanti perché siamo in una fase a livello internazionale molto delicata, quindi siamo in una fase così chiamata di reshoring, dove noi aziende internazionali stiamo riaccorciando le filiere praticamente produttive e quindi principalmente presenti nei paesi asiatici, stiamo ristudiando un'altra rete qui in Europa per avere, diciamo, le forniture più a portata di mano e quindi con tempi di consegna che possono rappresentare per i nostri clienti, diciamo, una tranquillità dal punto di vista appunto dei delivery. PMP è da 20 anni presente nei Balcani, praticamente più precisamente nella Repubblica Srpska a Gradiška. Stiamo partendo con un altro grosso investimento a Aleksandrovac, che è sempre vicino a Banja Luka, con un investimento per costruire una nuova fonderia. Sempre questi investimenti che noi abbiamo fatto nei Balcani sono a supporto dei nostri stabilimenti italiani. Trieste, Lara Zanni, TGR Friuli Venezia Giulia. Le segreterie territoriali di FIM, FIOM, WILM e le RSU di Varzila hanno indetto un presidio davanti al Palazzo della Prefettura di Trieste giovedì mattina per far sentire la voce del sindacato e dei lavoratori di Varzila. I sindacati hanno espresso in una nota la forte preoccupazione per l'assenza di informazioni rispetto al futuro dei lavoratori di Varzila. La reindustrializzazione dell'area, eventuali nuovi soggetti subentranti, sono i temi sui quali ci sarebbe dovuto essere un confronto al Ministero già alla fine di settembre, ricordano. Un incontro che però non si è svolto, mentre inesorabilmente si avvicina la fine dell'anno e con esso la scadenza dell'accordo per la gestione dell'ammortizzatore sociale e il blocco dei licenziamenti concordato in estate con la multinazionale finlandese. Per queste ragioni il 6 novembre scorso i sindacati avevano reso noto di aver scritto al prefetto di Trieste e al presidente della regione chiedendo un incontro. Anche in questo caso però i sindacati sostengono di non aver ricevuto risposte e dunque è stato indetto il presidio. Il Comune di Trieste ha presentato poco fa un progetto pilota per la creazione di un distretto del commercio intitolato appunto Trieste Commerciale. Sentiamo di che cosa si tratta. Tra i 20 distretti in Friuli Venezia Giulia c'è ora anche quello commerciale, riguarda Trieste. Si tratta di un progetto di 1 milione di euro, finanziato per oltre 500.000 euro dal Comune di Trieste e con 480.000 euro dalla Regione. Partner sono le categorie commerciali attraverso la Camera di Commercio, Confcommercio e Ures, ma anche l'Università di Trieste, che ha vaste competenze e ricerche nella mobilità e nel marketing del territorio e nella rigenerazione urbana, che potranno essere messe a servizio del progetto pilota di Trieste Commerciale, che ha individuato come aree principali sulle quali intervenire il centro storico, i rioni di Roiano e San Giacomo. In particolare, come ha spiegato Nicola De Luca, che è stato nominato manager del progetto di durata triennale, è prevista l'infrastrutturazione con la banda larga nelle aree interessate, l'installazione di nuove stazioni di bike sharing e poi la cura dell'arredo urbano e il calendario degli eventi. A breve verrà anche pubblicato un bando rivolto alle imprese dell'area pilota per sostenere progetti di digitalizzazione. Il distretto in futuro sarà allargato anche al rione di Servola e alle frazioni carsiche di Basovizza, Opicina e Prosecco. A questo proposito saranno necessari nuovi finanziamenti che l'assessore regionale Bini ha fatto intendere che potrebbero arrivare in futuro. Trieste, Nada Cioc, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il tempo e il cielo da nuvoloso ha coperto su gran parte della regione. Queste le temperature registrate poco fa. A Trieste 13,5 gradi con vento da est-nord-est, bora a 56 km orari e raffiche che hanno raggiunto in giornata i 70 km orari. A Gorizia 13 gradi, a Udine Pordenone 11, a Tolmezzo 7,5 gradi, a Forni di Sopra 7 gradi, a Sappada 6, a Tarvisio 4,5 gradi, a Piancavallo 4 gradi, sul Monte Zoncolan 0 gradi, su Lussari -1,5 gradi, 14 gradi a Grado, 13 a Lignano. Le previsioni per oggi: cielo nuvoloso, soffierà bora moderata in pianura, più sostenuta sulla costa e la zona orientale, con possibili raffiche forti sul Carso e a Trieste. Domani cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per qualche sottile velatura, soffierà bora moderata in pianura, più sostenuta sulla costa e le zone orientali, con qualche possibile raffica forte sul Carso e a Trieste. Vento da nord-est sostenuto in quota sulla zona montana, specie orientale. In occasione della giornata nazionale di lettura ad alta voce, Trieste e Gorizia rendono omaggio ai 100 anni della coscienza di Zeno con una maratona di lettura. A Gorizia è cominciata alle 9 e durerà fino alle 15, mentre a Trieste andrà avanti fino alle 2 di notte nell'emeroteca Tomizia di Piazza Ortis. Partecipano studenti delle scuole universitari, docenti dell'Università di Trieste e attori del territorio. Sempre su Italo Svevo a Trieste saranno presentati alla libreria CNULP alle 18.30 due volumi, entrambi scritti da Antonio Cepac, da 20 anni curatore del Museo Sveviano di Trieste. Si tratta di La funzione S e altri esperimenti di critica sveviana e Ultima sigaretta, Italo Svevo e il buon proposito, tutti e due usciti quest'anno. Abbiamo chiesto a Cepac in che cosa consiste, per interpretare il romanzo, La funzione S. La funzione S è un esperimento critico, cioè un'idea, no? L'idea che in un libro che già è stato giustamente a lungo discusso per quanto riguarda l'attendibilità del narratore, anche il curatore, che poi è un termine quanto mai ambiguo, no, per uno psicanalista, anche il curatore del romanzo, cioè il dottoresse, sia fondamentalmente inattendibile, cioè sia qualcuno che potrebbe aver alterato il testo di Zeno. Quindi capite che questo cambia completamente le cose, se non solo non possiamo fidarci alla parola di Zeno, ma non possiamo neanche essere sicuri che quella sia davvero la parola di Zeno, ecco che il romanzo diventa vertiginosamente ambiguo. E dove si trovano queste manipolazioni del dottoresse? Ma le manipolazioni del dottoresse sono, ripeto, sono fondamentalmente una provocazione. Bello è proprio quello che non possiamo saperlo, cioè non possiamo sapere se il dottoresse avesse alterato quello che Zeno ci racconta, non potremmo saperlo, non potremmo saperlo, non potremmo distinguerlo naturalmente, perché il dottoresse è colui che dà le stampe il romanzo contro la volontà del suo autore, quindi chiaramente dal punto di vista deontologico sia della sua professione di analista sia diciamo della sua professione di editore, sono decisamente un personaggio non positivo, anzi un personaggio estremamente scorretto, no? Che quindi in qualche maniera ci fa pensare che il suo conflitto con Zeno possa portarlo a fare delle scelte non eticamente sostenibili. Funzione S come svevo ma anche come sigaretta, l'ultima sigaretta, perché ha assunto un valore simbolico così grande? Ma diciamo che quello è un po' il biglietto da visita del personaggio Zeno, ma è, prima di questo è un'ossessione proprio del suo autore. Funziona perché parla un po' a tutti, perché non parla di nicotina, non parla di tabagismo, non parla necessariamente di dipendenza, ma parla fondamentalmente di procrastinazione, del rapporto col futuro, di come in realtà tutti quanti noi gestiamo il nostro futuro, la fiducia che abbiamo nel futuro. E torniamo a occuparci della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che lo ricordiamo cadrà il 25 novembre. Già oggi a Udine il coordinamento donne della CISL dell'Udinese ha organizzato un incontro con una sessantina di ragazzi dell'Istituto Tecnico Zanon e del Liceo Scientifico Paritario Don Milani, che hanno realizzato una sedia che è l'icona della ricorrenza e affidato i propri pensieri a una serie di post. Una sedia è un video molto toccante, montato ieri ma già non corrispondente al numero dei femminicidi, sono i messaggi consegnati da oltre 60 ragazzi, ahimè di solo due istituti udinesi, che hanno risposto al coordinamento donne della CISL di Udine, che li ha coinvolti in un percorso di confronto attorno al tema, purtroppo sempre più attuale, della violenza contro le donne. I ragazzi dell'Istituto Tecnico Zanon hanno realizzato decine di post-it raccolti in un video sottotitolato dalle musiche di Marco Anzovino, che riflettono e richiamano a parole importanti spesso sottovalutate come rispetto, libertà, amore, o soverchiate da altre estremamente pericolose come silenzio e possessività. Quelli del Liceo Scientifico Paritario Don Milani, una sedia iconica, monito contro la violenza sulle donne. Adelina Copil, studentessa dello Zanon. La violenza sulle donne, ma la violenza in generale, sia qualcosa di inammissibile e che non c'è giustificazione alla violenza, che tutti siamo uguali e tutti siamo liberi e non bisogna fare alcun tipo di discriminazione. Pierluigi Lanuccio, studente Don Milani. In questa sedia qui abbiamo voluto rappresentare un messaggio forte che deve andare appunto a colpire visivamente la gente che la guarda. I giovani sono la speranza, perché domani è troppo tardi, bisogna agire oggi. Questa è la sfida lanciata dal coordinamento donne della CISL, con la speranza che possa servire a vivere insieme le difficoltà della vita senza voler prevaricare l'altro. Tatiana Lillo, coordinatrice donne CISL Udine. Il ragazzo era un giovane. E questo ci fa capire che è un segnale di una società che deve rivedere un attimino quelle che sono le priorità e quelli che sono i valori fondanti per il rispetto e per la vita degli altri. Udine, Giovanni Taormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Sarà lo scrittore spagnolo Arturo Pérez Reverte il protagonista della 30ª edizione di Dedica, il festival organizzato dall'Associazione Culturale Tesis. Dal 16 al 23 marzo del 2024 a Pordenone, Dedica declinerà l'universo letterario dell'autore con incontri, letture e lezioni. Nato a Cartagena in Spagna nel 1951, Pérez Reverte è stato per 21 anni inviato di guerra per giornali, radio e televisione. Nel 1994 ha deciso di dedicarsi alla letteratura, pubblicando pubblicando negli anni romanzi tradotti in oltre 40 lingue. Uno dei titoli più noti è il Club Dumas, da cui è stato tratto il film La nonna porta di Roman Polanski. Gli spettacoli dopo le date triestine, l'attore lucano Rocco Papaleo è a Pordenone al Teatro Verdi, dove porterà in scena alle 20:30 l'ispettore generale di Nikolai Gogol, capolavoro della drammaturgia russa, una satira sul potere e sulla burocrazia dell'epoca, coperte da un manto pesante di ipocrisia. Ne abbiamo parlato proprio con lui. L'ipocrisia, diciamo, nella sua accezione è un termine negativo, quindi assolutamente credo che non contenga, almeno nel suo significato principale, un beneficio. Però quando l'ipocrisia, diciamo, sfocia nella diplomazia, allora il discorso, dal mio punto di vista ovviamente, il discorso cambia, perché si stendono maggiormente i rapporti e quindi anche un po' di falsità, diciamo, può giovare alla relazione. Cosa significa rappresentare un'opera di un autore russo in questo periodo? La Russia in questo momento non è certo fotogenica, no? E a un certo momento si era creato anche una specie di ostracismo nei confronti anche della sua cultura. E invece mettere in scena Gogol, un grande scrittore, prima ancora che un grande drammaturgo, mi è sembrato anche un po' un modo di dire, mi sembra un modo di dire che la cultura si smarca un po' dal potere, anzi lo controlla, lo critica e in generale crea una possibilità di comprensione tra i popoli. Com'è questa sua esperienza nei teatri del Friuli Venezia Giulia? Non vorrei sembrare ruffiano, io sono un meridionale, molto legato al meridione, e credo che sia la mia risorsa, diciamo, poetica principale. Però non posso negare di essere affascinato dalle città e cittadine del nord-est così tenute bene, o comunque in generale sono curate e funzionali. E quindi, diciamo, sono un meridionale che ama il nord. Si intitola Mi resta un solo dente e cerco di riavvitarlo, lo spettacolo che riporta nei teatri Elio e le storie tese questa settimana in Friuli Venezia Giulia per due serate, entrambe sold out, spettacolo che fa un pittoresco viaggio musicale nel repertorio della band. Si comincia questa sera a Trieste al Politeama Rossetti con inizio alle 21, domani invece a Udine al Teatro Nuovo, sempre con inizio alle 21. A Monfalcone va in scena l'attrice Valeria Solarino con il monologo Gerico Innocenza Rosa di Laura Rondinelli, una storia su un percorso di transizione, alle 20:45 al Teatro Comunale di Monfalcone. E a Sacile invece il concerto di Moni Ovadia, che interpreterà lo Stabat Mater di Walter Sivilotti, una preghiera contro ogni forma di violenza, al Teatro Zancanaro dalle 21. E si conclude così questa edizione del giornale radio, che è stata redatta e condotta da Dario Ronzoni e Giorgio Bearz, con la collaborazione tecnica di Andrea Fontanotta, collaborato in redazione Daniela Sossi. Prossimo appuntamento con il GR alle ore 15. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.